però non sono moltissimi. Per esempio, per Milano la famiglia di Marino o De Marino, come viene, ma ecco, risulta oggi identificata in di Tommaso Marino, ma anche dei fratelli Giovanni, Giovanni Agostino e Tobia, che attiva particolarmente tra il 1542 e il 1552, ma continuerà anche dopo, o Francesco Daga, che agisce tra il 28 e il 29 particolarmente. Sulla piazza napoletana agiscono invece genovesi e in qualche occasione anche qualche ditta tedesca. E gli stessi Fugger che, come abbiamo visto alla relazione del professor Pico, nel 1530, quel grafico che ha mostrato ieri, i Fugger trattenevano il 25% delle loro entrate dal regno di Napoli. Nessuno nell'altro caso, comunque, il valore complessivo di queste operazioni è basso rispetto alle percentuali degli altri banchieri, nella fattispecie specialmente i genovesi. Cioè non andiamo al di là dei banchieri delle province italiane dell'impero di una percentuale complessiva del 2-3% sul valore complessivo, il che indica la modestia, tutto sommato, di questi, il rango di questi operatori. Naturalmente all'interno delle province italiane il movimento di giro era più significativo e non ho l'impatto, per esempio, alle cifre di Chabot, che per esempio è possibile fare una lunga lista delle rimesse che tra il 35 e il 72 vengono inviate dalle province napoletana e siciliana a Milano. Questo perché, come è noto, Chabot l'ha spiegato bene, Milano è l'ante rurale delle province italiane del sud, è il Faubourg dal quale è possibile in qualche modo la chiave di volta del controllo politico territoriale del sistema mediterraneo. Per l'invasione specie eventuale dei francesi. Ora, in realtà, questo significa un indebitamento delle tesorerie delle province italiane, specie di quella napoletana, che naturalmente l'azienda di Napoli, per esempio, partecipa abbondantemente a questo finanziamento di questa politica. Gli asientos stipulati dall'azienda di Napoli tra il 50 e il 58, ad esempio, sommano 3.755.215 ducati, con le punte più alte che vanno a collocarsi giusto negli anni di crisi 52, 56, 58. Naturalmente questi asientos non coprono il totale delle rimesse effettuate all'estero dalla tesoreria napoletana, che per lo stesso periodo ammontano a 5.128.150 ducati. Naturalmente, appunto, in questo debito fluttuante stava il debito consolidato anche nel mezzogiorno, la vendita di annue entrate collocate non differentemente dalla Spagna sui singoli cespiti di entrata, quelle collocate sui fiscali che accorpavano i tre quarti tutto il pagamento del debito pubblico, mostrano un'impennata significativa a partire dal 1551. Ora, questo significa che, seppure non abbiamo finanzieri di rango come i genovesi, significa che comunque il mercato dei capitali viene drenato e viene indirizzato egualmente per queste vie al finanziamento della politica imperiale. Naturalmente qui ci sarebbe da parlare a metà secolo di come il mercato dei capitali abbia subito questo grosso scontro tra Francia e Spagna, non solo sul piano politico, ma sui meccanismi di controllo. E la questione del grande appello, che nella sostanza ha una valenza politica ed economica, perché i francesi capiscono che bisogna togliere il retroterra di finanziamento alla corona spagnola. E il grosso tentativo, che come sappiamo non andrà in porto, è quello di attirare i capitani europei offrendo un tasso di remunerazione, un tasso di interesse più alto di quello che può offrire la Spagna. L'operazione, badate bene, non riesce nonostante che effettivamente la remunerazione 8,33% sia più alta di quella media spagnola, che è per 7,15%. Il che, perché non riesce? Perché non riesce il consolidamento di questo debito e perché la corona di Francia non ha quelle capacità, quelle risorse, cioè la distinzione tra paesi d'elezione e paesi di Stato che limita molto le capacità della corona francese di far ricorso alle manovre fiscali, e principalmente non riesce perché alle spalle non ha tutte le Americhe, queste continue rimesse di metalli preziosi che vengono da America. In ogni caso il problema è identico, badate bene. Hauser ha parlato nel 59 di una grande crisi finanziaria europea, di una crisi che tra il 57 e il 60 colpisce i grossi imperi, quello spagnolo, quello francese, anche il Portogallo è compreso. E il problema è questo per tutti questi grossi paesi. Per la prima volta, in una congiuntura così breve, si trovano nella necessità di operare il passaggio da un debito fluttuante, che è un debito a breve termine e ad alto tasso di interesse, ad un debito consolidato, che è un debito a lungo termine e a basso tasso di interesse. Tutto sommato, e nonostante la ciclicità delle bancarotte, la corona spagnola ci riesce, mentre la Francia non ci riesce. Questo non significa che la Francia per altre vie non recupererà nel corso del secolo successivo dei meccanismi di gestione finanziaria adeguati al loro politico che si può. Significa però che c'è questo scarto che va spiegato. E in realtà naturalmente non era un'operazione semplice questo consolidamento del debito pubblico, perché la pubblicistica del tempo, tra l'altro, non aveva ancora configurato un sistema maturo di obbligazioni vincolanti per lo Stato. Anche la formula spagnola, desempeño del rey y empeño del reino, sembra tradurre i termini del problema in una tradizione, l'origine così di diritto romano, la tradizione breumana, no? Che esalta gli aspetti soggettivi del problema. E per questa ragione che noi comprendiamo bene le resistenze che all'interno del Consejo di Hacienda si svilupparono tra i vari componenti circa l'obbligatorietà per il re di fare bancarotta. Vi era una larga parte che non riteneva che il re fosse obbligato a riconoscere la propria insolvenza. È naturalmente un punto di svolta questa assunzione di responsabilità, un punto di svolta nei rapporti tra corona e banchieri. È il segno di una continuità che si configura non più in termini personali ma istituzionali. Certo, non è ancora connotata totalmente la dimensione statuale del problema. C'è la categoria azienda con tutto il suo carico di ambiguità in qualche modo, che nega nel tempo questo trasferimento di obbligazioni dalla loro natura originariamente personale in un sistema di obbligazioni dello Stato. Alla fine del 1556 Filippo II prende atto delle dimensioni del debito ricevuto in eredità dal padre. Ed era un debito che assommava il debito a breve termine ad almeno 6.761.000 ducati, mentre le annualità del Cudos erano giunte a 542 milioni di maravedis, oltre ai rate con i banchieri che sarebbero venuti a scadenza nel tempo. Il 17 aprile 1557 il sovrano emana un decreto di sospensione del consignaciones diretto ai membri del Consiglio di Asienda e promulgato da Valladolid il 10 giugno successivo. Gli impegni presi fino al 31 dicembre del 1956 venivano riconosciuti integralmente, ma convertiti in curos di un tipo particolare, che si chiama curos affittare, da 20.000 all'anno, vale a dire in titoli al 5%. Ora, tanto per questa, diciamo, bancarotta, quanto per il successivo decreto del 1560, io credo che abbia ragione Ehrenberg quando dice: ma ci troviamo davvero di fronte ad una bancarotta? Perché la bancarotta, per definizione, anche oggi, il debito non viene mai riconosciuto integralmente. Se aprite i giornali oggi, l'altra volta di Pordenone stava sempre ricordato a un 8% con le banche, al 50, al 40, al 60. Invece qui abbiamo due elementi che in qualche modo danno, non siamo ancora nel classico schema della bancarotta, perché il debito viene riconosciuto pressoché integralmente e non c'è un vero e proprio medio generale come sarà per le bancarotte successive a partire da quella del 1575. In realtà la storia di questa bancarotta del 1557 ha una pendice che va avanti fino al 1560, quando un secondo decreto sospende nuovamente le assegnazioni. Perché? Perché, come aveva segnalato il Consiglio di Asienda, non vi erano sufficienti ingressi fissi sui quali situare i curos, cioè il consolidamento era di difficile attuazione. Naturalmente in questa manovra si inserì il gioco dei genovesi, perché, e qui a mio avviso è, se vogliamo, la capacità proprio dell'operatore economico, intuirono che se veniva riconosciuta la negoziabilità di questi titoli e se l'interesse veniva innalzato appena di qualche punto, sarebbe stata aperta la via al mercato internazionale dei capitali e quindi al loro trasferimento. Ecco perché essi insistono e ottengono, attraverso, direi, due assenti rimasti famosi, quelli del 22 maggio del 58 di Nicolò Grimaldi e quello stipulato in Bruxelles il 20 gennaio del 59 da Angelo Giovanni e Tommaso Spinola, ottengono l'innalzamento di qualche punto percentuale e questa possibilità di far circolare questi titoli. Ora, noi vedremo nel corso degli anni 60 che il problema era di far circolare dal lato questi titoli e non trovarsi mai con questo materiale scottante un po' come il gioco di borsa in qualche modo. Bisogna far girare, lucrare sugli interessi e stare attenti che nel momento in cui cadono drasticamente di non trovarsi con tutta la mazzetta in mano. Ora, questo tentativo naturalmente bisogna vederlo anche e si pone per le province italiane, cioè capire quando avvengono questi decreti e successivi concordati, chiamiamolo così, in medias generales, che cosa succede nelle province italiane della Spagna. Ora, la documentazione non è tantissima, perché questa è un po' la cosa strana, non c'è mai un riferimento diretto a questi decreti, è rarissimo, io mi sono battuto in pochissimi casi di un riferimento così esplicito tra abbassamento in Spagna e abbassamento in Italia. Però bisogna vedere appunto se questo decreto di sospensione in quale misura colpiva i titoli del debito pubblico milanese, napoletano, siciliano e che in quale misura venivano riconosciuti o non riconosciuti questi assientos stipulati loro. In realtà il meccanismo di sospensione dei pagamenti era stato praticato in Italia, anche in età spagnola, molte volte indipendentemente dai decreti spagnoli. A Milano, nell'agosto del 1546, di fronte alle tensioni che suscitava l'esazione del mensuale, l'imperatore Carlo ne decideva l'abolizione, salvo a reintrodurlo nel settembre del 47 e per di più aumentato a 250.000 scudi al mese. E per tutto il 46 furono sospesi gli assegni coperti da questa entrata, che da solo assommava a tre quarti dell'entrata ordinaria. La situazione si ripete in termini ancora più pesanti nel maggio del 1554, quando il governatore Ferrante Gonzaga sospendeva tutti i pagamenti assegnati sulle entrate che per il 1555 sarebbero sommati a 372.000 scudi. Relativamente alla sospensione spagnola del 1560, sembra che a Milano il decreto sia stato emanato, almeno io ho trovato un decreto, emanato addirittura prima di quello spagnolo. Si ha notizia infatti di un decreto di riduzione fatto da Sua Maestà il 26 agosto 1560 che abbassava al 5% tutte le rendite. Non è possibile escludere a mio avviso che questa manovra fosse stata concertata tra Milano e Madrid in previsione del successivo decreto del 14 novembre 1560 che scatta a Madrid. Tuttavia non doveva essere strano a mio avviso anche l'impegno dei gruppi che controllavano l'apparato e la diversa protezione da essi accordata ai vari interessi economici. Del resto, come sfuggire all'impressione di forti manovre speculative alla notizia che a pochi anni dalla riduzione tutte le rendite sono fatte risalire nuovamente dal 5 all'8%. Altro esempio assai calzante di questi rapporti tra finanza privata e amministrazione reggia è la vicenda del noto banchiere Tommaso Marini, che nel contrario a Sientos con la corona si serviva di denaro raccolto sulla piazza milanese, costituendosi perciò debitore verso coloro che glielo offrivano. Anche se ci è sconosciuta la sua esposizione debitoria, è evidente che la sospensione del 1560 lo metteva in guai seri. In seguito a lunghe trattative, egli ottiene dalla Camera di Milano, magistrato ordinario, di pagare i suoi creditori con i medesimi effetti di questa Camera di Milano, cioè in titoli che avevano ormai un valore reale molto al di sotto del loro valore nominale e anticipando a mio avviso una manovra che sarà messa in atto dai genovesi proprio nel 75. automatico, ma forse più in relazione al successivo decreto del Curos Spagnoli, che avviene un decreto e una riduzione poco conosciuta, questa del 1563 in Spagna, una riduzione che avviene, viene fatta a 7%, e l'ordine di desempegno del patrimonio, che viene dato dal viceré di Sicilia nel 1563, il 20 agosto 1563, affinché vi sia una riduzione delle rendite, operando per prime su quelle che sono al 12%. Ora, ho detto tutto questo perché in qualche modo possa capirsi che, come vedete, i margini non c'è probabilmente una, non c'è sempre un rapporto così automatico. C'è sicuramente un tentativo di coordinare queste politiche di riduzione dei tassi di interesse sulla rendita pubblica, però molte volte scattano indipendentemente dai decreti di sospensione che avvengono in Spagna. Ora, sarà bene invece considerare quello che avviene in Spagna e principalmente in Castiglia. Ora, in realtà, fino agli anni 60 del secolo, il professor Vázquez de Prada, ieri appunto, ha detto che a suo avviso, forse più in là, fino al 1575-80, la Castiglia aveva potuto giovarsi di questo rapporto tra circuiti commerciali e circuiti finanziari, ovvero lo sviluppo del mercato interno castigliano era assicurato da un elemento esterno in qualche modo al sistema produttivo commerciale. C'era cioè la necessità per gli hombres de negocios di ricoprire i loro asientos con importazioni di prodotti spagnoli, perché vi era la proibizione di far uscire dalla Spagna oro e argento. E questo aveva obbligato il capitalismo cosmopolita che agiva in Spagna a strutturare la propria presenza anche all'interno del circuito commerciale, mentre i gruppi mercantili castigliani in questo modo venivano a godere di una sorta di vendita di posizione. Naturalmente questa posizione venne a modificarsi tra il 66 e il 70 per una serie di elementi di natura anche politica. 66 comincia la lotta dei Paesi Bassi, c'è una lotta interna dei Moriscos di Granada, c'è un impegno della corona sul fronte della lotta contro i turchi, e tutto questo naturalmente comporta degli impegni di spesa pubblica notevolissimi. Questi elementi hanno fatto parlare di un cambio di linea politica, di un bilancio filippino, come è stato definito da Dominguez Ortiz, che comporterà un impegno di spesa crescente. Ora, in realtà, qui non vi leggo queste cifre, ma sicuramente, ecco, c'è un elemento di novità che accompagna questa concessione, questa apertura di credito a partire dalla fine degli anni 60, vale a dire la concessione di licencias de saca, vale a dire di permessi di esportazione dei metalli preziosi. Questo è un elemento importantissimo, perché nel momento in cui le sono dati questi permessi di esportazione, naturalmente non vi è, c'è un abbandono, non vi è più la necessità di ricoprire il valore di questi crediti concessi con merci che vengono prese dalla Spagna, e questo naturalmente significa una disarticolazione dei circuiti e dei mercati produttivi e commerciali. È in fondo una rottura di quei legami che tenevano avvinti all'interno del sistema economico i settori produttivi, commerciali e finanziari, e che consentivano all'economia spagnola di restare agganciata ai circuiti europei. E infatti le conseguenze si hanno principalmente nel sistema di fiere castigliane, Villalon, Medina del Rio Secco, Medina del Campo, dove si assiste tra il 67 e il 69 ad una serie di quiebras, di fallimenti dei banchieri che agivano su quelle fiere. E chi risulta al centro, chi ne guadagna? I genovesi, ancora una volta, che riescono a controllare e ad avere l'egemonia di questi flussi della domanda e dell'offerta monetaria. Io vorrei ora riassumere a questo punto, in questa prima parte, che quali sono gli elementi che caratterizzano questa prima fase. Abbiamo, cioè, il rapporto tra finanza pubblica e finanza privata. Abbiamo un riconoscimento pressoché integrale da parte della corona della propria situazione debitoria. A partire invece dal 1575, dalla bancarotta del 75, il sovrano non riconoscerà più per intero i propri debiti, li contesterà sistematicamente, sia nell'ammontare complessivo che nella legittimità dei tassi praticati. Il secondo elemento è che all'interno di questo debito complessivo la chiave di volta non sarà solo più il debito puntuale, ma sarà anche il debito consolidato, le annualità, il montante complessivo dei PUDOS che vengono a giocare un ruolo determinante. Il terzo elemento è quello a cui facevo riferimento prima, e che a partire dagli anni, fino agli anni 60 e avanti, c'è una progressiva affermazione di un mercato finanziario largamente segnato in senso speculativo. E con la concessione di queste licenze d'esatta, di questi permessi di esportazione, l'economia spagnola non beneficerà più degli stimoli della domanda internazionale, proprio nel momento in cui si fa più marcato l'effetto della spirale prezzi-salari. E tra questi dati ormai strutturali della relazione corona-ombres de negozios, che si muove la congiuntura finanziaria degli anni 60-70. Le esigenze sempre maggiori della azienda castigliana generano nel paese forti tensioni sociali, che tuttavia vengono in qualche modo ricomposte nell'identificazione dei genovesi come i maggiori responsabili del disagio economico della Castiglia. Sì, è un clima in cui giocano anche degli elementi di tipo nazionalistico e naturalmente di cui si fanno carico le cortes castigliane che si riuniscono a Madrid nel 1573 e che nominano una commissione per indagare sullo stato delle finanze di Castiglia. Questa indagine procede con difficoltà e tuttavia sembrò che il debito a lungo termine dovesse aggirarsi intorno ai 35-36 milioni di ducati, più altri 110 milioni di maravedis a vario in duros perpetuos e altri 70 milioni di maravedis di duros de por vida. Ma non si riuscì ad accertare, anche per la scarsa collaborazione delle contabilias reali, quale fosse la vera situazione del debito a breve termine. E naturalmente queste cifre premiano i gruppi più radicali che spingevano per una rottura della collaborazione con i genovesi. E sull'onda di questa, di questo anche nazionalismo in qualche modo, va, si lancia il decreto di sospensione delle consegnazioni del 1 settembre 1570. 5. A differenza dei due precedenti, questa volta non si riconosce riconoscevano integralmente degli interessi, anzi si protestava la illegittimità degli assi stipulati tra il 60 e il 75, specialmente degli interessi, e si invocava la legittimità, si invocava l'opinione di alcuni teologi che in questo caso sono pronti a essere chiamati in servizio quando non c'è da pagare, per dire che non sono validi quei tassi di interesse. Ora, questa volta veramente le cose sembrano mettersi un po' male, perché c'era in qualche modo un paese compatto dietro la Verona che chiedeva di mettere alle spalle i genovesi, e naturalmente, i quali naturalmente per parte loro si trovavano nel mezzo di una vera e propria, non dico guerra civile, ma di contrasti, una crisi politica assai interna, in quel quadriennio famoso che ha studiato Giorgio Verri in un articolo molto preciso negli studi di memoria di Berlandi. E tuttavia essi cominciarono a lavorare un po' per vie interne e vie esterne, per esempio ostacolando le dimesse per le Fiandre, attivando vari canali politici e diplomatici. Ma c'è un elemento in qualche modo determinante per far sì che nel tempo tutto si componga. E l'elemento determinante è che il capitale castigliano, chiamato a sostituire il capitale genovese, non si dimostra adeguato a quei livelli di impegni che la corona richiedeva. In questo modo si arriva ad un meglio degherà, vale a dire ad un accordo tra la corona e i banchieri, in data 5 dicembre 1577. Anche qui, naturalmente, i genovesi non riescono a recuperare tutto. Le somme sono riconosciute, sono decurtate ad un livello più basso, e di questo livello, di questo montante, i due terzi vengono riconosciuti e pagati in euros da 30.000 a 1 miliardo, l'altra invece in giurisdizioni e diritti di vassallaggio. Ora, in realtà, quello che nel meglio generale non vi era solo un accordo sui debiti passati, veniva la corona, legava immediatamente e imponeva questo accordo, cioè io ti riconosco questa parte che non è oramai più tutto quello che tu pretendi di avere, ma allo stesso tempo, mentre ci mettiamo d'accordo su questo tot per cento che io ti devo, allo stesso tempo mi apri una nuova linea di credito contestualmente al riconoscimento dei vecchi debiti da parte mia. Quindi erano delle partite di dare e avere che non si chiudevano affatto, ma che continuavano nel corso del tempo. In realtà, da questa bancarotta del 75, i genovesi si obbligano ad aprire una nuova linea di credito per 5 milioni di ducati da rimettere per 4 quinti a Milano, Genova e alle Fiere di Bisenzone, e di un rimanente 1 quinto a Milano e in Sicilia. Ma il punto di maggior vantaggio per i genovesi era costituito dalla possibilità di pagare i propri creditori con la stessa moneta con cui essi venivano soddisfatti, vale a dire con i titoli della rendita pubblica svalutati. Ora, in realtà, avete capito che il meccanismo si scarica su quella stratificazione sociale che ieri proprio abbiamo visto, che aveva imprestato ai genovesi. I genovesi raccoglievano il denaro e lo imprestavano al sovrano, ed è su loro che si scarica in sostanza, attraverso questo meccanismo, il danno che viene dato dal decreto. E naturalmente, a partire da questa data, si palesa in maniera evidente che i rapporti tra corona e al membri del negozio sono squilibrati, sono in qualche modo, e lo saranno ancora per molti decenni, totalmente a favore dei secondi. Naturalmente qui ci sarebbe da dire il gioco anno, non dico anno per anno, ma è possibile fare una ricostruzione come dal 75 al 96 di Asientos di fabbisogno della corona, dei livelli di impegno di spesa che io e delle cifre che non sto a dare. Salto immediatamente alla successiva bancarotta, quella del 1596, quando ci si accorge che c'è un notevole deficit di cassa, c'è una relazione a metà dell'anno 1596 al Consejo di Hacienda che mostra che fino al 99 oramai lo Stato non sarebbe stato più in grado di provvedere al pagamento delle annualità dei titoli di Stato. E predispone questa volta in una maniera forse ma per meno la mancanza. Il pagamento di interessi o il pagamento o la mostra? No, no, ammortamento. Ammortamento, pagamento di annualità. Ora, questa volta batte meno la gran cassa di quanto avesse fatto nel 75, cioè non monta tutto quell'apparato dalle cortes e non investe il paese. Direi che la cosa scivola con molto silenzio. Infatti l'apparato predispone l'operazione con una accortezza incredibile. A Simancas vi sono decine e decine di fogli, di lettere inviate ai corregidores delle città, a queste autorità cittadine rappresentanti della corona, che dicono: sospendete le consegnazioni se vengono a chiedervele, però non dite ancora che c'è un decreto. E infatti sono delle cose incredibili, perché per esempio a Medina del Campo viene detto che, dice, scrivono: abbiamo ricevuto la vostra notizia, stiamo cercando di tenerla nascosta e abbiamo posto in atto vari medios per impedire che arrivino addirittura in città gli hombres del negozio. Li stiamo facendo perquisire, li stiamo facendo controllare, abbiamo fatto il modo, e arrivano fino a due giorni prima di quando il decreto venga reso pubblico, dice, abbiamo fatto in modo che si arrivino a tarda notte, in modo che sono bloccati tutta la notte e non vengono, possano venire agli uffici di tesoreria. Ora, naturalmente, quando il decreto viene posto in essere il 29 novembre del 1596, la sorpresa è abbastanza grossa per gli hombres de negocios. E per impedire fallimenti a catena all'interno degli hombres de negocios, essi sospendono i pagamenti in fiera ad un tasso, anzi li rimandano, quelli che vengono a scadenza, ad un tasso assai moderato dell'1,5%, che ha, come dice una corrispondenza spagnola, che ha parecido el medio más conveniente para tener esta máquina en pie, che dà anche l'immagine di questo baraccone che deve essere mantenuto, alimentato, prolungato, perché altrimenti succede un fallimento pressoché generale. Particolarmente esposti in questa bancarotta del 96 sembravano i banchieri fiorentini, per quello che dovevano a veneziani, i quali erano tra i tutti i creditori quelli che esistevano maggiormente per essere pagati. Ne mancavano tra i fiorentini coloro che nella rabbia chiedevano lo spostamento delle fiere a Pisa, questa è la notizia che ho trovato, sotto la protezione del Granduca. Ora, secondo lo schema oramai collaudato, Giunta del Desempegno, vale a dire la giunta incaricata di operare le trattative, e una deputazione dei decretados, vale a dire dei banchieri colpiti, mettono in atto una serie di contatti per trovare una soluzione. E la soluzione viene ratificata dal Legio Generale del 28 novembre 1597. Anche questa volta vi è questa conversione del debito fluttuante in euros al 5% per due terzi e per l'altro terzo al 7,14%. Della gestione di questi rimborsi, e questo è anche qui, potete vedere uno spostamento di questi rapporti di forza tra corona e banchieri, del pagamento di questi interessi, non erano incaricati gli organi reali, ma una compagnia del Medio Generale, all'interno del quale, della quale, con un proprio consiglio di amministrazione, vi erano gli stessi banchieri. Cioè, praticamente, per tutto questo blocco di pagamenti che doveva essere operato, in qualche modo i banchieri funzionavano quasi da ufficiali tesorieri della corona. Scrivevano le lettere per pagare ora questo, ora quello. E questo va dice lunga su questi rapporti oramai, come vanno in qualche modo degenerando, e certo non a favore della corona. Naturalmente questo decreto colliva l'Italia spagnola in un momento molto delicato di transizione, perché vi era in qualche modo, si veniva a vedere negli ultimi effetti di un processo di recupero, anzi direi di espansione, che nel corso della metà, seconda metà del Cinquecento, aveva visto l'Italia spagnola e non spagnola recuperare. E naturalmente la finanza pubblica aveva beneficiato di questa espansione in almeno due direzioni. Da un lato si era ampliata la fascia sociale del prelievo, dall'altro nuovi e più sviluppati rami di attività produttiva si erano aperti alla tassazione. Questo aumento delle entrate, tuttavia, non era volto ad equilibrare il bilancio, ma a finanziare l'allargamento della base del debito pubblico. La sola corte napoletana, che aveva contratti a sieto osseggiato nel 61 e 75 per vari milioni di ducati, ne aveva aggiunti tra il 76 e l'84 altri 2 milioni e 488 mila ducati. E in aggiunta a questi problemi si manifestano quello che sarà un problema cronico, specie per Napoli e Sicilia, la penuria o mancamento del contado, cioè del circolante, specialmente di piccoli. E dalla bancarotta del 96, che come se vedete le date sono a cicli, è un ciclo quasi ventennale tra una bancarotta e l'altra, c'è di mezzo però una bancarotta che capita da appena 10 anni di distanza dalla precedente, la bancarotta del 1607. In realtà questi anni che occupano poi il regno di Filippo III sono anni in cui, come ha scritto Pier di Lan, vi è la crisi decisiva del potere spagnolo in Europa e vi è un diffuso disagio, un senso di insicurezza a livello della società, perché che si traduceva nella precarietà della vita quotidiana, la prima cosa che fanno ad tutti gli strati sociali cominciano a tesaurizzare, cioè l'argento, le monete dure che scompaiono dal circuito monetario. E il problema che occuperà tutti i governanti del 600 sarà quello di far uscire fuori questo argento. Intanto, per i bisogni immediati, cominciano queste coniazioni della moneta di vellon. E in breve, sì, il Girone è una moneta molto composta essenzialmente a vari livelli, a vari percentuali, fino ad essere proprio tramo punto, quindi una moneta a valore intrinseco molto basso. In breve si definiscono due circuiti monetari. Le transazioni internazionali si svolgono in argento, mentre all'interno circola solo il bellone. Tra il 99, 1599 e il 1626 fu coniato bellone per 41 milioni di ducati, di cui la metà nel solo periodo 1599-1606. Naturalmente non so dirvi i dati di effetti inflattivi che determina questa spinta alla creazione del bellone. E naturalmente subito la seta castigliana avverte questi effetti che si presentano tra il 6 e il 7. E tuttavia le cifre che sono nel fondo consejo in punta di Hacienda non dimostrano poi che la crisi era veramente così tragica, cioè ne aveva affrontato di peggiore l'azienda castigliana, e infatti è abbastanza inspiegabile in termini di situazione di cassa questa bancarotta del 1607. Ruiz Martín ha sospettato che questa sospensione sia stata voluta dagli stessi genovesi nel tentativo di avviare un disimpegno progressivo dall'azienda castigliana. Anche questa volta questo il decreto che viene lanciato nel 1607, sono due decreti a distanza di tre giorni, il 6 e il 9 novembre 1607, viene composto di un medio generale del 14 maggio 1608. E anche questa volta i genovesi mettono su uno strumento, la deputación del medio general, anche questa volta manovra con un proprio fondo tutti i movimenti del rimborso, discriminando all'interno degli stessi creditori. Ora, la crisi del 1607 palesa, se ne fosse ancora bisogno, questa dipendenza ora maggiormente manifesta tra centro e periferie. Infatti già è una dipendenza che si avverte anche prima del decreto. Nell'estate del 1606 a Napoli si sospendevano le assegnazioni che ricadevano sulla dogana delle pecore di Foggia, e la fonte dice: così si farà per tutto un anno dell'entrata regge per la perdita di questa quota d'India. E ancora subito dopo il decreto, il 30 novembre, pensate, 6 e 9 novembre c'è il decreto in Spagna, il 30 novembre, giusto il tempo di arrivare la notizia, un altro rappresentante, questa volta un diplomatico, dice: qui questo vice re non preme in altro che in trovare modi che nessuno sia pagato. E in effetti nessuno viene pagato su queste entrate, che però in attesa che vi fosse questo decreto di abbassamento delle entrate, che tuttavia tra il 1608 e il 1611 c'è una lunga gestazione. Perché? Perché proprio nel mezzo di quello che sembra un controllo pressoché totale dei genovesi, nelle province comincia a svilupparsi una resistenza, e infatti questo nel 1611 il Parlamento napoletano decide l'abbassamento al 7%. Questo abbassamento tuttavia non sta bene ai genovesi, che volevano mantenersi almeno due punti in più su. Ed è un decreto che colpisce, al contrario di quanto essi si andavano e sospettavano, colpisce molto i genovesi, fino a lasciare traccia della stessa pubblicistica spagnola. Andrea Spinola, in uno scritto degli anni 20, ricorderà che da quel momento i genovesi si tirano indietro dal Regno di Napoli, chiudono i rubinetti del credito e preferiscono trovare altre forme di investimento che non siano nella rendita pubblica. Quindi, per quanto riguarda Napoli, questo è un punto di svolta nei rapporti di questo circuito tra centro periferia, corona, hombres de negocios. La stessa cosa è in Sicilia, badate bene, dove si assiste anche lì a svalutazioni della rendita che sono connesse nel 1608 particolarmente ad una svalutazione della moneta del 11%. Ora, in realtà, questa, il grosso problema era la capacità che si poteva, ed è particolarmente drammatico nella società e nella pubblicistica del tempo, di recuperare questo ruolo centrale politico ed economico. In realtà però, quindi sono componenti diverse, non tutte di politiche ma anche sociali, di comportamenti, di mentalità, in una società, come ha scritto Eliot, ossessivamente rivolta alla palabra scritta, alla pensiamo a questa circolazione degli scritti degli arbitristas, tutto, ogni novità sembrava tradursi nell'intento di restaurare l'antica e perduta grandezza più che reformare le strutture di una decadenza presente. Il passato, dai re cattolici di gloriosa memoria in avanti, veniva riproposto come un momento continuo di ispirazione, e per questo anche i migliori rappresentanti della letteratura arbitrista si tradiscono nella stessa intitolazione delle loro opere. Pensate, Memorial de la politica necessaria y útil restauración de la politica de España, di González de Celorillo del 1600. Restauración politica de España, di Sancho de Moncada del 1619. Conservación de monarquías, di Pedro Fernández de Navarrete del 26. Fino ancora a Restauración de la abundancia de España, di Miguel Cata de Loyola, che è del 31. Vedete, c'è una, e non è solo un fatto filologico o di titoli, c'è una l'incapacità e l'impossibilità di passare dalla restaurazione ad una reformazione, che significa modifica, cambiare i meccanismi. Se voi leggete le consulte del Consiglio di Hacienda, ma più ancora delle province del Consiglio d'Italia, di fronte ai suggerimenti di modifica, qual è la frase che maggiormente si trova? Non conviene hacer novedades. C'è quindi una fiducia di restaurare un meccanismo antico che invece si dimostrava assolutamente inadeguato ai bisogni del presente. Dovrei ora parlarvi di, ma stiamoci volando, mi resta ancora poco, c'è tutto un grosso problema nel corso tra il 1619 e il 22 di come si ripercuotono queste crisi, ed indipendentemente dalla bancarotta spagnola, nell'Italia spagnola stesso. Tra il 19 e il 22 sono sicuramente crisi, è un momento decisivo, uno spartiacque per l'economia dell'Italia spagnola. Ora, quando all'inizio degli anni 20 il problema si ripropone in termini di nuova presenza del ruolo spagnolo sullo scacchiere europeo, le province italiane sono chiamate nuovamente ad impegnarsi all'interno di questo finanziamento. Questo, nelle opinioni di Olivares, il valido il privato di Filippo IV, non doveva essere disgiunto da una riforma fiscale, e tuttavia le categorie che ispiravano la filosofia fiscale di questa riforma, la giustizia, l'utilità, la proporzionalità, la suavità, la generalità, mai si conciliavano con le urgenze degli impegni politici e militari e sembravano anzi produrre l'effetto opposto a quello desiderato. La generalizzazione dell'imposizione riusciva a produrre solo la socializzazione dell'impoverimento. In questo quadro, e nonostante che l'Olivares non avesse, aveva tentato di scartare agli inizi il sistema degli asientos, questi ritornano prepotentemente con tutto il loro peso e naturalmente sistematicamente arriva anche la bancarotta. E infatti abbiamo un nuovo decreto di consegnazione, di sospensione del 31 gennaio 1627, che però stavolta, e questo denota anche i rapporti contrattuali che vanno modificandosi tra corona e banchieri, i genovesi cominciano a perdere qualcosa della loro capacità contrattuale. Una volta per firmare un medio generale un accordo occorrevano 2 o 3 anni, stavolta riescono a firmarlo in solo 8 mesi, tra il gennaio, 9 mesi, e il settembre di quello stesso anno. In realtà tutto ciò significava che qualcosa cambiava nella gerarchia della Repubblica Internazionale del Denaro. Ed infatti la modifica che avviene all'interno di questa Repubblica, che ha le sue gerarchie, significa che i vecchi gruppi degli Spinola, dei Centurione e via dicendo cedono il passo a gruppi di finanzieri, se volete anche più aggressivi. Sono i Pichinotti, gli Squarciapico, i Grillo, gli Strata, i Balbi. Ma in realtà nel giro di qualche anno apparirà chiaro che neppure questi nuovi gruppi sono i veri controllori del mercato internazionale, perché al loro posto compaiono i portoghesi. E infatti questo comincia ora ad essere chiaro, al di là degli articoli di Castillo Pintado sulle Annali, finalmente comincia ad essere chiaro il ruolo dei portoghesi sulla scena europea. E questo ruolo, questo ingresso nei circuiti finanziari avviene paradossalmente per effetto di una congiuntura commerciale negativa. Alla fine del Cinquecento i gruppi mercantili che avevano puntato sul commercio delle spezie si ritirano in gran parte dalla carrera da India in cerca di più e sicure o remunerative occasioni di investimento. E in questa maniera cominciano lentamente ad entrare nel circuito del debito pubblico. C'era un problema: questi in gran parte erano Marranos, Cristianos Nuevos, cioè ebrei convertiti più per necessità di sopravvivenza che per fede al cattolicesimo, che soffrivano dei limiti posti ai loro movimenti dalla legislazione spagnola. Ma col tempo e con il denaro generosamente elargito a corte, riuscirono nel 1610 ad ottenere la libertà di venire fuori dal Portogallo. Si assiste quindi ad una nuova diaspora: Livorno, Roma, Firenze, Venezia, Napoli, Anversa, ma soprattutto Amsterdam, la nuova Gerusalemme, come veniva chiamata nelle fonti castigliane che adombravano cose tremende che si svolgevano in questa Amsterdam. E da Amsterdam e Hamburgo, dove controlleranno il grande mercato dei capitali. Salto le cifre, se non a dirvi che tra il 26 e il 50 essi concertano con la corona asientos per un valore colossale di 81 milioni di ducati, il 40% delle quali viene rimesso nelle fiandre. naturalmente anche qui in questa nuova Repubblica Germana esistevano delle gerarchie. Su, ho contato circa, mi sembra, una cinquantina di questi banchieri, ma in realtà la gerarchia voleva che solo un gruppo ristretto volesse questo flusso, infatti solo quattro, Manuel de Paz, Duarte Fernandez, Jorge de Paz e Shimao Soares, concorsero in questo periodo tra il 26 e il 50 per il 70% di questi 81 milioni di ducati. In realtà questa emissione di nuove gerarchie, di nuove forze e quindi di nuovo denaro non poteva cambiare il ritmo di una congiuntura sicuramente avviata al calvario per la Spagna, che doveva scontare una serie di congiunture anche politiche: la secessione del Portogallo nel 1640, la lunga ribellione dei catalani ricomposta solo nel 1652, le innovazioni a Napoli e Sicilia tra il 47 e il 48. In realtà rinunziare a fronteggiare questi impegni significava per la maggior parte dei gruppi dirigenti perdere la propria identità storica, ma mantenere l'identità e l'integrità territoriale dell'impero comportava dei duri costi sociali e terribili prezzi economici. E infatti nel 47 le rendite della corona risultano già impegnate per i quattro anni successivi e non si sapeva su quali entrare fissare le nuove consegnazioni. E ancora una volta, puntuale, a distanza di vent'anni, scatta il decreto del 1 ottobre 1647. Certo, per questo, attraverso il nuovo riconoscimento di una parte dei debiti, la corona guadagnerà al netto 10 milioni di ducati. E naturalmente pensava di ritornare a un flusso abbastanza regolare. Naturalmente anche comincia a dipanarsi la ragnatela politica, questa pace sociale interna delle province, che tuttavia la pace ha i suoi costi, e questi costi non sono meno pesanti della guerra, che anzi su altri piani continuava. E infatti a distanza di 5 anni dalla precedente bancarotta, nuovamente nel luglio, 31 luglio 1652, scatta un nuovo decreto di bancarotta, corretto poi, almeno nei suoi termini, da un successivo decreto del 1 marzo del 53. Entrambi questi decreti saranno ricomposti nel medio generale del 18 agosto del 1654. Ora, in realtà, ecco, ci sono delle cifre incredibili che i contemporanei danno, alcune fonti seicentesche. Per esempio, il contador Tomás Aguilar, altre cifre che ora copa la Biblioteca Nazionale di Madrid sembrerebbero veramente degli impegni colossali di spesa. In realtà si spiegano anche attraverso queste donazioni di moneta al Berlione, perché pensate che tra il 48 e il 60 erano stati erogati 1648-1660 131 milioni di ducati. E se a questi si aggiungono i 250 che Aguilar sosteneva essere stati spesi tra il 21 e il 1640, ed altri ancora che altre fonti ritengono essere stati spesi, si arriva alla colossale cifra, tra il 1621 e il 1640, più di 400 milioni di ducati, che è un impegno chiaramente impossibile da sostenere per qualunque ordine di potenza imperiale. E naturalmente anche qui, in questi decreti, attraverso questi decreti, la ripercussione sull'Italia spagnola è immediata, però comincia a essere sempre meno significativa. Cioè, più l'aggancio è automatico, più in qualche modo direi che i margini di elasticità scompaiono, e quindi per quanto mi riguarda ritengo che è forse anche meno interessante, perché non c'è più capacità contrattuale di modificare i questi termini si è inviluppati in un meccanismo a senso unico. Ora arrivo alla fine per dirvi che ancora poi a distanza di qualche anno succederà una nuova bancarotta. Il 14 agosto del 62 viene disposta l'ultima sospensione dei pagamenti del regnato di Filippo IV. Però questa volta da l'una e dall'altra parte le forze sono esauste, perché bisognerà attendere abbastanza perché si arrivi ad un meglio generale e in una situazione che diversa sul piano congiunturale. All'inflazione che aveva caratterizzato l'epoca filippina segue la stagnazione. Al peso del debito fluttuante si aggiunge quello consolidato, che non offrendo più tassi remunerativi non alletta più i capitali come nel secolo precedente. Ma questi sono solo alcuni dei problemi che affliggeranno l'epoca di Carlo II e che segneranno il passaggio della Spagna e del suo impero da potenza imperiale a nazione marginata dal grande gioco politico ed economico. Mi rendo conto che la comunicazione di Limuto, estremamente interessante, ben coordinata, non sarà stata forse troppo ben compresa dagli amici tedeschi. E d'altra parte mi preoccupa il fatto di affidare all'amico Kellerman una sintesi di un lavoro così ampio e articolato. Ma poi sospendiamo subito per 15 minuti il lavoro, riprendiamo con una certa rapidità quest'oggi per dare poi ancora, purtroppo, a cosa partiamo oggi. Che passa probabilmente a un'altra crisi, questa crisi che cerca di avvicinare le agricolture con i paesi autonomi, con la stessa Thank you. Presidente Mazzi ha tornato indietro crescendo, mi è tornato a leggere con tutto il sacco del nord, anche io mi chiamo senza vedere tutto il mondo fare un po' di fisica a portare questo problema di intento politico di fondo. Dovete pensare che questo sia contro le due vizi a cui abbia avuto e abbia iniziato a fare questo, che io non si avrà un po' di più a fare un po' di più che sarebbe formato di un corso di esizione da Spagna, Mailand, poi premiato a Osteologo. E ciò al sesso, soprattutto nel 1990, a meno che la regione di Sussaide, questa regione di Sussaide che chiude per una forma scritta parte di regione parte di Spagna, con tutto il mondo di vista da questo del 1960, e cioè, ed è una motivazione fondamentale della tolleranza valenziana nei confronti soprattutto di coloro malati che non vogliono che in un periodo in cui gli ebrei sono uno degli elementi più dinamici della città commerciale veneziana, che questi lavoratori e questi capitani che vadano in Levante. E ci sono indicazioni di precise pressioni da parte turca che risalgono agli ebrei residenti all'interno dell'impero ottomano affinché Venezia pratichi questo tipo di tolleranza. Poi prende beneficio anche come Venezia. Questi ebrei, per riprendere i termini della presentazione del professore Mandela, sono soggetti per eccellenza di una repubblica del reale senza stato che si muovono. Poi tante altre cose da dire, io mi bilancio su cuore, non ho fatto altro, ma sono professore, c'è mai da ricordare una cosa che mi sembra non sia stata un po' trascurata. Ammetto di non capire tedesco, quindi forse qualcuno dei professori tedeschi ha discorso lungamente di questa cosa senza che io l'abbia percepito. Altra cosina che direi, mi pare che abbiamo parlato ampiamente di Mediterraneo occidentale, ampiamente di Europa occidentale, sufficientemente di Europa anche centrale orientale, ma il Mediterraneo orientale dove è andato a finire? E dunque grossi capitani, interessati tanti di operazioni finanziarie sono presenti. Ma per esempio anche le testimonianze di tipo ho fatto negative che vengono fuori quando Venezia perde Cipro, quindi non ho aumentato i nomi di molti operatori greci che credo che siano più robustiti nel corso del 500 in conseguenza di quella graduale diminuzione dell'attività nella regione patrizia che in un certo senso lascia anche più spazio soprattutto per i greci di Creta. Questo dico poi che hanno preso da conto perché la mia che sta facendo per il dottorato su questi greci e di quello che rimangeremo da Venezia, che sono patrimoni veramente vincenti. Facendo così posso sembrare aggravato perché di prova ho detto di sempre di non aver fatto questo, non aver fatto quell'altro. Portate pazienza, spero che sia vero. Ha ragione, sta io non lo credo già. Grazie. Non so se seguito da una ministra io aggiungere molto, si concorda che effettivamente c'è da considerare sullo scacchiere internazionale anche delle presenze che in qualche modo anche noi non abbiamo trattato a sufficienza. E certamente forse la sola prima di aggiungere che l'intelligenza di Venezia è quella di tollerare la presenza di questi ebrei e forse ecco l'unico riferimento che posso fare alla Spagna è che quando questi portoghesi non riescono più a mettere in moto quel cespuglio che tra il 26 e il 50 hanno alimentato, la Spagna non esita un solo momento a decidere questi rapporti a partire da un 54-55 i legatos del Consejo dell'Inquisición sono pieni di processi fatti molte volte a questi stessi portoghesi di cui la Spagna si era servita e anche nelle province, ricordo alla fine degli anni 50 un processo a carico di quello Miguel Vaez Contemola, il quale era stato un personaggio decisivo in un tentativo riformista fatto da Lemos e poi si era inserito nella pubblica amministrazione, quando in una diversa congiuntura non assolve più a un determinato ruolo e viene percepito come essere il legame tra la diaspora e un nucleo portoghese a Napoli, suo figlio verrà posto sotto processo con le c'è anche un amico molto, ha fatto una esposizione veramente interessante, e ha una ampiezza così considerabile che io credo che lui stesso è sicuro che ha molti problemi che non sono risolti, e con molto più io non mi parlo sempre di un'idea di quello che io considero il primo. Il primo, io sono sicuro che la visione di stare l'agente contante in Spagna, la Sciacca, hanno stato la causa della disarticolazione fra sistema mercantile e sistema finanziario che erano collegati. Certo che la licenza di Sciacca ha potuto non sono di questo momento, ha detto anteriormente licenza di Sciacca, è vero che non in tanta quantità in questo momento, ma la licenza di Sciacca non vuol dire si completa, io credo, con il circuito dei mezzi. Non vuol dire che si fare il danaro non si possa che alla cambiare le linee. Al contrario, la zona di Sciacca è un mezzo della situazione della gente. A questo punto io credo che non è esattamente la causa della gente, è una delle cose che ha anche accentuato questo processo. Una seconda questione, quando io ho parlato finanziare molto privilegiata, perché Castiglia non ha avuto, una rivoluzione in questo momento, era il Stato, era generoso da permettermi, diciamo, le pezze di appoggio riguardo generoso anche bella, ecco, io sulle, ovviamente per quanto riguarda la prima questione, quella sulle esportazioni di oro e argento, si abbiano contribuito in maniera così determinante nel disarticolare l'economia spagnola, posso essere più preciso. Vi è l'opinione naturalmente di Felipe López Martín, che non ho citato, ma appunto qui c'è una citazione spagnola che, da cui mi sono fatto il convincimento, in cui López Martín è dell'opinione che abbia avuto un effetto assolutamente dirompente. Il problema è sicuramente vero che a partire da quegli anni gli assentistas vogliono ogni volta che ottengono un assento, concedono queste, vogliono queste licenze di SACA, cioè questi permessi di esportare. Due, è assolutamente vero che, almeno io credo, che contribuiscono in maniera decisiva. Certo, sulla decadenza del sistema economico spagnolo influiranno molte altre cause, ma una serie di indicatori consentono, almeno così mi sembrava, di determinare che sicuramente in quegli anni questo è un elemento che contribuisce forse più degli altri e che comunque non consente il recupero al sistema economico spagnolo di leggere, di articolare meglio il rapporto tra circuito produttivo e circuito commerciale. Forse l'aggettivazione di tensioni sociali in relazione al decreto del 1575 è un po' equivoco, allora sarò più preciso. Io mi riferivo in particolare alla grosse tensioni che animano il gruppo dirigente spagnolo negli anni, tra la fine degli anni 60 e la fine e la prima metà degli anni 70. I due partiti, egoista e dalbista, che all'interno del Consejo de Estado, e non solo del Consejo de Estado, perché tutta la corrispondenza del Consejo de Hacienda consente di vedere queste, come si organizzano questi due diversi gruppi contrapposti, sono gruppi di potere che rimangono a due diverse, non dico concezioni, ma due, questa per esempio, ecco, posso fare un riferimento preciso a un libro che non ha note, ma che io, è Imperial Spain di Eliot, in cui c'è un riferimento preciso a questa dialettica tra due diversi modi di gestire il potere. E lui ha cambiato questa cosa, cioè l'ha letto, ma non l'ha ancora scritto, perché ho letto di recente anche il volume della storia di Menendez Pidal, che non ha cambiato questo sentiero di sfere. Sì. E qui c'è questa, e comunque devo dire, avrà anche cambiato, però a me quel modello lì, io l'ho potuto verificare in questa, come si organizzava questo diverso sistema di potere tra il modello, tra un modello quello albista che privilegiava in qualche modo, più centralizzato in qualche modo, privilegiava la Castiglia, e questo modello in qualche modo del Rui Gómez da Silva, il contador maior, il principe di Ebro. Certo, non sono modelli organici, alle loro spalle non c'è teorie ideologiche, letterarie o teoriche che in qualche modo arricchiscono e ci danno modo di verificare. Però sul piano concreto della gestione del potere, sì, c'è la corrispondenza per esempio del Rui Gómez da Silva, del Consejo di Juntas de Hacienda, con tutti i vari personaggi che, tanto a Milano, in Sicilia, a Napoli, gestivano per lui, come se fossero degli uomini di fiducia, a cui lui impartiva delle direttive su come gestire in relazione ai vari affari, alle varie situazioni politiche che si presentavano, come gestire il rapporto con i rendicoli, cioè in una maniera che fosse meno centrale. avanzata un'aggregazione di consenso della periferia, un'aggregazione della periferia ha un tentativo di creare un consenso all'azione della corona. Terza questione, le rivolte del 1600, dal 40 quando si distacca il Portogallo fino al 52 quando viene recuperata la Catalogna. Ma io non ho detto solamente, se voi lo rileggo, che era impegnata su una serie di piani, perché ovviamente il tentativo di recuperare la Catalogna, il tentativo di domare queste sollevazioni comportavano nuovi impegni di spesa in una congiuntura internazionale, quella dei 30 anni, che già vedeva la Spagna fortemente presente, quindi con una grossa esposizione debitoria. Ed ancora il rapporto tra collezioni di Gagliol e moneta del decreto del 1607. Infatti è vero, dal 1599 comincia la collezione delle monete, della moneta di Gagliol. Ed è anche vero che non c'è sicuramente un rapporto stretto in questo senso qua. Io anche qui mi sono rifatto ad un'opinione che ho detto, perché so che ovviamente uno utilizza anche la letteratura poi di Ruth Martin, che riteneva che questa bancarotta del 1607 non fosse stata determinata tanto da necessità oggettive della sonda, quando addirittura dagli stessi genovesi, che in qualche modo volevano, oramai si sentivano troppo imposti sul piano del debito fluttuante e volevano operare un consolidamento sul piano del debito consolidato per tentare di scaricare un po' di eventuali danni che avrebbero potuto ricevere. E poi gli effetti del rapporto centro-periferia in relazione ai decreti. Sono convinto anche io che in alcuni casi c'è una ripercussione pressoché immediata tra un decreto spagnolo e una sospensione alle periferie. In altri casi non c'è affatto. Questo naturalmente dipende il grado di elasticità tra decreto spagnolo e sospensione in periferia, dipende anche da una serie di altre variabili, la congiuntura interna del paese sicuramente, l'esposizione, la partecipazione dell'azienda delle singole periferie a questi impegni. Naturalmente vi erano alcuni aziendos che sicuramente erano coinvolti e altri titoli del debito pubblico che in effetti non erano coinvolti. Non era neppure automatica la percentuale dell'abbassamento, non è mica detto che al centro si abbassava di 2 punti e in periferia automaticamente di 2 punti. Questo dipendeva da tutta una serie di altre valutazioni che sicuramente in periferia il rappresentante vecchio, governatore o vice re, doveva avere presente. Sì, rapidamente, come effetto di materiale. Sì, io credo così che questa estrazione del denaro forse ha essere beneficiosa per l'Italia in generale, perché c'è un migliore sicuramente. Questo sì, è senz'altro vero, questo che dice, questo si confermerà nel corso della guerra dei 30 anni a Milano specialmente. Ci sono questi flussi di cui beneficia la comunità milanese, su questo non c'è di una posizione del diavolo. Professore, che ci del bilancio commerciale in quei tempi delle pandemie che venivano sia quasi al settembre e quei tempi delle pandemie anseguono dell'unica decisione di non discutere le cose anche a un'altra parte persone che con Dio hanno visto le grandi guardie, sono in modo di raggiungere il problema israele, tra il suo tra Israele, tra i ragazzi benedissimi, tra il problema delle ammonimenti di istituzione, di vivenze, di mandarsi per il suo governo, la tua vivenze, di danno di sport, di organizzazione, di istituzione, di istituzione. Israele mai vedi per il buon lavoro di parlamentare, ma il lavoro di Dio. Addio, addio di Dio che vuole si resta, anzi per il mio visto, Israele pari nel tuo reggio, con il tuo lavoro di Dio, con il mio visto, il desetta per il rispetto di Dio, con il mio visto, con il mio visto, sul mio visto, con il mio visto, riguarda la bilancia, il problema monetario e la congiuntura monetaria, questo problema che aveva sicuramente una relazione con le crisi finanziarie e che si pose in proprio termini particolarmente impegnativi nel corso dei primi due decenni del 1600, particolarmente tra il 1607 e il 1622, che è una grossa, c'è questa grossa crisi anche a Napoli. Ma tu prego che sei la cascata ora. C'è uno studio di Luigi De Rosa appunto sui cambi esteri del Regno di Napoli che mostra come i cambi napoletani tra il 1591 e il 1622 subissero un aumento molto forte rispetto alle altre monete italiane e ritiene che il rialzo dei cambi fosse determinato dall'andamento poco favorevole della bilancia dei pagamenti. E tutto ciò comportava anche, e gli dice, un'ascesa dei prezzi. Ora, c'è un rapporto tra questo aumento dei cambi e svalutazioni monetarie. Ed infatti, sempre il professor De Rosa ha calcolato che rispetto al 1610 la moneta napoletana perdeva l'8,4% del proprio valore, nel 1617 il 15,90, nel 1618 il 20,31%, nel 1620 il 33,10%, sempre facendo riferimento al 1610. Sono in questi gli anni nei quali il governo vicereale si preoccupa appunto di controllare la circolazione monetaria, tanto della moneta di piccoli, quanto anche, e questo è un grosso problema, della circolazione fiduciaria che attraverso i banchi pubblici napoletani era un'ulteriore quantità di circolante che veniva immessa nel circuito dell'offerta e della domanda. Una testimonianza è questo, ce la dà una fonte contemporanea. Giovanni Domenico Turbolo, credentiere della zecca napoletana, riteneva che tra il 1599 e il 1629, quindi in 30 anni esatti, fossero stati coniati dalla zecca napoletana 12.962.305 ducati, e di questi agli inizi del 30 fossero rimasti in circolazione non più di 3 milioni di ducati. Quindi c'è un fenomeno monetario uguale a quello che viene in Spagna, cioè di tesaurizzazione della moneta, almeno di quella buona evidentemente, non solo. E che il problema di Olivares e dei genovesi, e questi sono concorrenziali, è quello di riuscire a mettere le mani su questa moneta buona o sull'argento che viene tesaurizzato. Naturalmente non ci riuscirà, io credo, né l'uno e né gli altri, almeno in questi anni qui. Zur Frage 1, er sagt, er hat noch keine qualitativen Studien gemacht. Es bezieht sich also prima età moderna, epoca moderna, il 16, die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts, Mitte des 17. Jahrhunderts, beginnt dann die andere Hälfte. Zur zweiten Frage, Konjunktur monetaria, also ein bisschen voll im Zusammenhang mit der SACA, kommen die Edelmetalle nach Italien, die verwendet worden für in der Zecca, in der Provinzstätte und in Mailand, in Genua, in Neapel. Die Theresa hat diese Dinge untersucht und hat festgestellt, dass in der Zeit 1600 bis etwa 1625, dass diese vielen Millionen Dukaten verschwunden sind, bis auf eine kleine Prozentsatz. Wir haben noch etwas ähnliches wie in Hamburg, es ist eine Welterscheinung, auf die wir auf der Bühne Diskussion eingehen müssen. Grazie, dunque questo è molto funzionale, per dire che è stato. Io non credo che non credo che il ministro di Lucano si debba adottare un regime di controllo di tutti i diritti, soprattutto per quelli che non è più di 600, non è capacità di passare dalla regolazione. Diciamo da 10 minuti per la crisi del 300 che vale a 10 anni, diciamo solo di un pezzo dell'attività, c'è l'incapacità di passare da installazione a una forza di volevo osservazione a una regola a come no, e poi quindi ci sta di tutto dei libri di maestra di pista, cioè per il contenuto il ciclo di servizio di livello di libri sono tutti i migliori di conservazione, di valutazione, però io non conosco questa letteratura spagnola, cioè più per parallelo con la letteratura di Agostista, mi sembra che questa rivista forse pensa per essere portata in un valore, non per essere stata loro. Anche se sono addirittura ascoltare da una persona nel 600 che dice la parola rivoluzione, perché la parola rivoluzione partiva dagli inventori di tutti nel 700, riferiva dagli occhi, che sarebbe la rivoluzione delle occhi, sarebbe la sua, ma c'è che la allora, su questo io mi chiedo il secondo punto già il secondo punto si è riferito in questa serie che anche nel suo libro alla questione del diritto e del diritto e ricordate che io so che c'è questa corrispondenza so che c'è anche una data di questa corrispondenza per la terza civiltà di Master quello che non so è che per un po' questa corrispondenza era veramente una domanda e io mi ricordo che era sempre un po' una domanda cioè, questo prima di passare alla domanda qui c'è una cosa che volevo dire posso avere la domanda se un primo non è il punto al passato sì perché io sono tutti da questa figura che trovo anche in Martini se io sono tutti da più di cosa che non la mia tempo dove vengo in situazione di questo tipo ancora oggi di uno studio aggiornato sulla letteratura degli arbitristi dopo quella di Jean Villard, non di più, di Jean Villard, su questa figura dell'arbitrista che è un tema interessantissimo della Laraschi, sì, l'epoca del meccanismo in Castiglia, sì. C'è nuova letteratura. Sì, sì. No, io metto per esempio l'introduzione alla conservazione no, di Monachias che fa Michael Gordon in un'edizione, in un'introduzione alla conservazione di Monachias di Pedro Fernandez e Navarrete. E vedo che è uno studio recente, credo di 2 anni fa, edito dall'Istituto degli Studi Fiscali di Madrid, dove fa riferimento alla letteratura aggiornata, quella che è uscita. Ecco, c'è una cosa che mi ha colpito. Cioè, sicuramente, io il titolo, se mi consegni, mi stava bene questi titoli perché in maniera esemplare sottolineavano quello che era il contenuto secondo me di arbitrios se ne trovano nelle biblioteche spagnole i più strani veramente in realtà se pensiamo ecco a una pubblicazione come quella di l'autore mi sfugge ma a González Valencia, la punta delle formazioni, che tra il 18 e il 22 si preoccupa di raccogliere questa massa ingente di arbitrios i più diversi, le cose più strane veramente, da quelli più seri sulla fiscalità a quelli sul modo di commerciare con le lingue e via dicendo. Noi siamo veramente così. Io sono rimasto colpito, ho visto e letto questo libro di González Valencia e a volte l'estrema genericità dei rimedi proposti e le stesse modalità con cui la punta delle formazioni assume e passa ad inglobare all'interno delle proprie consulte passa ad analizzare e a proporre quando mi ritiene opportuni questi mezzi, questi arbitrios, secondo me la dice lunga sul fatto che c'è uno scarto, una discrepanza, una frattura tra l'ansia e di venire fuori dal disagio economico e l'incapacità di afferrare invece in quali punti concreti si può penetrare per cercare di invertire il ciclo. Per esempio, non so se realmente questo fosse stato un mezzo adeguato, ma Dominguez Ortiz, per esempio, fa rilevare in un suo scritto sembrerà strano. Dice Domingo Tortiz, io non capisco perché di fronte a questa desalinizzazione dell'argento che avveniva in Spagna, perché non si sia pensato di alzare il prezzo dell'argento. Dice, e la cosa strana, può darsi anche che non funzionasse per niente, però doveva essere un mezzo che doveva almeno essere suggerito sotto questo profilo. Comunque non viene pure neppure come mezzo, diciamo, come ipotesi, ecco, sotto questo profilo. Ecco, secondo me, e in questo io sono d'accordo anche certamente con Elliot, che in qualche modo per noi è stato, almeno per quelli della mia generazione, un punto fermo negli studi sulla Spagna, e c'è un bell'articolo su Past and Present che è Self-Perception and Decline of Castile. Ma questo è recente, è di tre anni. C'era tutta una parte della società spagnola, o di male non più da parte che si lanciò di solo. Vorrei dire che nella una lettura della stratificazione sociale e del vertice del potere spagnolo mostra che Olivares dietro di lui aveva tutto un grosso una grossa fetta della dirigenza castigliana che lo incentivava, lo spingeva per una riproposizione della Spagna sullo scacchiere europeo. Altrimenti non si capisce perché sia durato tanti decenni prima della caduta di Olivares. Era solidale di fronte al disagio economico, a questo senso di decadenza che avvertivano i contemporanei. Erano solidari, certo che sbagliavano, probabilmente, ma con i fatti la storia non ha dato ragione a loro, ma la società spagnola nei suoi alti, diciamo, nella gerarchia di comando era assolutamente, ecco, almeno dopo il 1622, c'è un periodo tra il 17 e il 21, quando c'è anche lo Zuniga, combatte il comando del potere con Olivares, in cui lo Zuniga sembra svolgere una funzione più forse e induttrice. Poi viene a morire e probabilmente, e non sappiamo come sarebbe andata la cosa, ma io ritengo che comunque si sarebbe, o sarebbe stato fatto fuori, o comunque si sarebbe accodato all'Olivares. Ma su questo bisogna dire che effettivamente hanno giocato questa partita e l'hanno vinta, però, l'hanno persa, scusate, però dietro di loro c'era il grosso di questa dirigenza spagnola che spingeva, sì. Ma la tregua non fu a favore degli, cioè gli anni, sì, gli anni di tregua non fu a favore degli, sapere che qual è il vero prima, ma sarebbe stato possibile utilizzando la regola di stimolare l'economia per spagnolo. L'amministrazione spagnola non era capace di utilizzare questi elementi, bisogna attraversare per anni, anche nella crisi di amici tedeschi, a seguita sotto il marchio, cioè sotto il sospetto di disposizione. Allora, un momento, ma perché su questo argomento mi sembra che si vada inserire anche il professor Berenger, che su questo veramente, ma non si deve dimenticare che questa rottura della frega fu fatta in un momento di vittoria e dopo la vittoria della Boemia sui Retici, cioè, Santa Maria della Vittoria a Roma, il monumento si è portato, e giustamente ogni altro era un momento di e hanno pensato in questo momento che sarà veramente la possibilità di vincere gli olandesi. E come d'altra parte, gli olandesi è un olandese di gran parte tutto, che aveva avuto sul piano religioso allora, che voleva anche per la guerra, credo che era un congiuntura favorevole per la guerra. Io ho pubblicato un articolo della scienza sociale, l'ho già scritto, che è pubblicato in tedesco. Ho mostrato come questa politica spagnola è ligata con la politica dei svedesi, gli esportatori del ramo. La politica monetaria della Spagna è dipendente dell'esportazione del ramo. Era quella la Spagna non era capace di approfittare della situazione dei paesi bassi. No, perché il cambiamento si produce il momento che a passare la giornata chi è ambasciatore a Bologna è venuto in Spagna e ha preso il governo. Lui aveva una chiara coscienza della necessità di appoggiare i cattolici e i Bologna. L'aveva detto che chi ha scambiato questo senso di una parte di una pazzia e di un tempo di potenza. Ma questa era la politica dei olandesi, i grandi mercanti erano realisti, hanno fatto le politiche sul realismo. Come oggi, pochissimo. Se usciamo un po' da questo problema, se molto molto specifico, questo rinuncio io ad alcune domande che avrei voluto fare, per dare la parola al professore Achille, che si è morto, ma non c'è un problema di l'ultimo, rispetto all'ultima, aber auch für die Schule zu gucken, gut berechnen. il sentito del consentito, come il dopo per il 500, però ecco, io credo che siano abbastanza in grado di controllare questo mercato dei kudos. Le cose possono cambiare nel 600, ma nel 500 c'è tutta una tipologia di kudos che io vi ho risparmiato, che mostra come la corona giostrasse tra kudos perpetuos, kudos de por vida, kudos salpitar, kudos de restat. E poi la differenza essenziale tra il 60 e il 70 tra kudos de caution e kudos de resguardo. Tutto questo ora non vorrei tediarvi con qual è il grosso problema. Il grosso problema è di trasformare questi kudos, che all'origine i kudos de caution erano titoli che la corona assegnava ai banchieri se non avesse pagato al tempo debito, però erano bloccati, la loro circolazione in quanto kudos de caution era molto limitata. Il problema invece per i genovesi qual è? Quelli di trasformare questo tipo di kudos, un kudos che circolano, che si muovono, perché solo attraverso la commerciabilità, la trasferibilità di questi titoli era possibile creare movimento, circolazione e quindi guadagnarci su. Grazie.